Siamo in Sala Borsa, siamo qui alla seconda edizione di una storia con la F maiuscola, la prima è di dicembre 2021, in spazio Carbonesi, sempre a Bologna, devo dire riuscita molto bene, ma eravamo in un periodo un po' sfortunato con le restrizioni Covid. Adesso, se Dio vuole, siamo riusciti a farlo in un luogo ancora più iconico, che è la Sala Borsa di Bologna, senza restrizioni, e quindi guardiamo tutte le persone in faccia e finalmente riusciamo a far vedere a tutti e riusciamo a vedere nelle facce di tutti lo stupore quando capiscono di cosa significa esporre una storia, esporre un senso di appartenenza, e lo significa per noi e anche, devo dire, per tutti quelli che arrivano a questa mostra, da Carlton Myers, che oggi era qui, a Davide Lamma, che oggi era qui, due capitani iconici della storia Fortitudo, all'ultimo dei tifosi, cioè a quello che tifa Fortitudo da due giorni. Devo dire che il senso di appartenenza è proprio nel nostro DNA. Parlavi anche di un crowdfunding? Proprio per questo noi partiamo dal presupposto che è una mostra di tifosi per i tifosi. Noi abbiamo creato un'associazione che si chiama Associazione Museo Fortitudo, indipendente, siamo in quattro, che io nominerei, sono Renato Del Mugnaio, Filippo Venturi, Federico Venturi ed io che sono Matteo Naldi. E abbiamo creato questa associazione proprio perché volevamo donare alla città cimeli e memorabilia che avevamo in casa. Devo dire che ci siamo aiutati tra di noi, ci hanno aiutato molti collezionisti e siamo riusciti a mettere in piedi questa mostra. E quest'anno abbiamo anche creato un crowdfunding e la risposta è stata eccezionale, dimostrazione che proprio è una mostra di tifosi per i tifosi. Sul sito Eppela si trovano tutti i riferimenti per continuare a donare, anche perché le donazioni ci serviranno per sperare, il nostro obiettivo finale onestamente è quello che questa mostra possa essere permanente. Perfetto.